Oggi non ci possiamo sbagliare nel fare i podcast, ogni volta si ricomincia con la sigla, vero Denise? Oggi è abbastanza immediata la cosa, eh? Infatti avrete in seguito la possibilità di riascoltare i nostri contenuti. Ho sempre voluto, perdonate questo sfogo emotivo e sentimentale, un gran bene ad Agora, la stagione che seguo dalla nascita, una stagione... A che edizione è arrivata, Denise, quest'anno? Siamo arrivati alla nona quest'anno. Beh, tra po' abbiamo la doppia cifra. Quindi pensa esatto. Un po' quanti spettacoli, quanti approfondimenti, quanti motivi di aggregazione e soprattutto una linea che dà importanza al nostro territorio nella parte settentrionale della provincia, dove adesso tutti i comuni mi vengono in mente pian piano. C'è anche il comune di Galliera, fra l'altro, il comune di Castelmaggiore, insomma, Castello d'Argile. Castello d'Argile, sì, che ho citato anche prima, ma mi pare siano 9. Però detto questo, con Alessandro Amato, che è il direttore artistico della Kermesse, tu hai avuto motivo di conversazione. Ci puoi dire qualcosa di più, Denise? Sì, ho fatto oltretutto la mia prima intervista, quindi abbastanza emozionante. Sì, abbiamo chiacchierato appunto della nuova stagione, appunto abbiamo detto la nona stagione edizione teatrale di Agorà, che si aprirà il 12 e il 13 di ottobre 2024. Con lo spettacolo Vorrei una voce di Tindaro Granata, un evento che rappresenta comunque un momento speciale in cui il teatro diventa un luogo di trasformazione dove gli spettatori possono uscirne sicuramente cambiati. Appunto, ecco, sotto la direzione artistica di Alessandro Amato e con la supervisione di figure importanti come Alessandra Belledi, la stagione di quest'anno si articola in 28 spettacoli, laboratori e incontri che coinvolgeranno i teatri e gli spazi culturali di, come abbiamo detto, 8 comuni dell'Unione Reno Galliera. È un progetto che mira a nutrire una comunità di spettatori artisti, stimolando anche su discussioni appunto di temi attuali e promuovendo la partecipazione attiva del pubblico. Abbiamo detto appunto temi attuali perché il programma affronterà questioni molto rilevanti come i sentimenti o le relazioni familiari, il ruolo e il linguaggio e soprattutto anche i doveri delle donne, che è un argomento che di attualità. Spero, diciamo, anche i diritti. Oltre che i doveri, perché... Ah, sì, hai ragione. Mi auguro anche i diritti, ma ne sono scusa, certo. I diritti, ho sbagliato. Ma ne sono certo di questo. Ad esempio, appunto, con Vorrei una voce che esplora l'emancipazione femminile. Ecco, sì, infatti, e attraverso le esperienze di detenute come delle detenute, mi sembra, siciliane, non vorrei sbagliare. Mentre Chiaroscuro invece racconta la storia di Artemisia Gentileschi, una pittrice coraggiosa e indipendente. Grande artista. Esatto. C'era una mostra, certo. C'è stata una mostra a Genova, mi sembra. Sì, una mostra curata da Artemisia, di questa artista che ha fatto la parte importante in un mondo tipicamente di uomini. A Napoli l'anno scorso. Sì. Iniziamo ascoltando il contributo che hai portato, la prima parte di conversazione con Alessandro Amato. Assolutamente. Buongiorno e benvenuto, oggi siamo qui con Alessandro Amato per parlare della nuova stagione di Agorà che sta per partire. Siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci aspetta, quindi grazie per essere con noi. Grazie a voi. Partiamo con una domanda generale. Bene, cosa possiamo aspettarci da questa nuova stagione, o meglio, quali sono le nuove linee guida principali? Allora, come sempre, la stagione Agorà che si muove in 8 comuni dell'area della Reno Galliera, quindi tutta l'area nord dell'area metropolitana di Bologna, e ha tra le sue caratteristiche quella di lavorare all'interno dei teatri e in spazi non teatrali. Quindi, come sempre, ci sarà una proposta molto rappresentativa di quello che è il teatro contemporaneo. Nuove creazioni e un progetto speciale dedicato agli 80 anni della Liberazione. A proposito delle sedi, quindi sono mai le sedi dell'anno scorso o magari ci sono anche novità sotto questo punto di vista? Allora, come sempre, cerchiamo di portare il pubblico a scoprire nuovi luoghi del territorio. Alcuni spettacoli inaugureremo al Teatro Biagi d'Antona con Tindaro Granata. E siamo stati per una piccola anteprima questo sabato all'interno del cortile del castello di Bentivoglio. Visiteremo la Stadio di Gani, che è un luogo di cura e attenzione, con uno spettacolo We Did It della compagnia Teliersi, proprio sul rapporto che abbiamo con la natura. Quindi saremo in questo luogo che è anche un luogo di cura sia delle persone che della natura, gestito da la Venente. Le compagnie protagonisti che parteciperanno a questa stagione sono sempre di grande interesse. Puoi darci qualche anticipazione su chi sarà coinvolto quest'anno? Allora, quest'anno partiremo appunto, come già dicevo, con Tindaro Granata, che parte da Agorà per il tour del suo nuovo lavoro Vorrei una voce, in cui porta in scena le donne che ha incontrato in occasione di un laboratorio nel carcere di Messina. Quindi Tindaro porterà le loro voci raccontando il percorso che ha avuto con loro con Vorrei una voce, mettendo in scena l'ultimo concerto di Mina, quindi prendendo in prestito le parole di Mina e delle sue canzoni. Sarà per la prima volta in stagione la compagnia MK, un nuovo spettacolo Sfera, a cui abbiamo dedicato come ogni anno una monografia insieme in collaborazione con Danza Urbana e con la Casa della Cultura Italo Calvino. Ci sarà a gennaio uno spettacolo storico IM della compagnia Fanny Alexander, ma anche spettacoli nuovi come Elogio di una vita al rovescio, scritto e diretto da Daria De Florian con Giulia Scotti, sull'incontro, uno spettacolo sull'incontro che Daria De Florian ha avuto con l'autrice, la scrittrice sudcoreana Han Kang. Interessante anche il logo di stagione, che è questa vasca da bagno dove è appollaiato un passerotto che sembra stia dialogando con una paperella, esatto. Tipica presenza nelle vasche da bagno, anche nella mia. E a questo punto parliamo del pubblico, grazie all'intervista di Denise Del Dotto ad Alessandro Amato, direttore artistico di Agorà. Parliamo un po' del pubblico. Negli ultimi anni avete visto qualche cambiamento nel tipo di spettatori o magari no? Diciamo, ecco, qual è il pubblico che solitamente risponde meglio alle vostre proposte? Allora, sicuramente dopo gli anni del Covid c'è stata una variazione della tipologia del pubblico. Siamo molto contenti perché dall'anno scorso la collaborazione con Altre Velocità, con cui abbiamo sempre collaborato, ha portato dei frutti notevoli. Con Altre Velocità e con la cura di Lorenzo Donati realizziamo da 2 anni, questo sarà il terzo anno, i sofà di Agorà e Altre Velocità, che sono degli incontri a Bologna con le compagnie, e dall'anno scorso abbiamo avviato un laboratorio di scrittura che ha creato una redazione di giovani per realizzare delle riviste. Questo sicuramente è stato, abbiamo notato che ha portato un numeroso pubblico di giovani, quindi siamo molto contenti, certo. Anche perché l'impegno di Agorà è di portare spettacoli storici e offrire novità, quindi. Beh, è sempre bello coinvolgere i più giovani. Bene, allora grazie mille per questa bellissima chiacchierata, mi ha dato davvero tantissimi spunti e ora non ci resta che aspettare con ansia l'inizio di questa nuova stagione. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi per lo spazio. Grazie mille. Eri emozionata, Danny? Eri un po' emozionata? Abbastanza, devo dire. Quanti accidenti mai tirato? No, assolutamente. Teniamo tanto ad Agora, la stagione Agora 2024-2025, grazie anche a Giulia Foschi dell'ufficio stampa, Alessandro Amato, la voce come direzione artistica. La rubrica in scena ovviamente procede dopo lo stacco musicale e avremo un nuovo palcoscenico, almeno per quanto riguarda il Breakfast Club, non per Radio Città Fujiko, per il Breakfast Club, sì, e ne siamo molto onorati. A tra poco! Come on, come on and breathe it.